lavori, ok. Cazzo, dici, oh, cioè, se permetti, io con certe cose non voglio avere a che fare, capito? E questi signori qua non hanno fatto altro che nei loro diritti, rispettando assolutamente la legge. Beh, ecco perché l'altra volta ho citato il diritto positivo italiano e poi ho citato il diritto internazionale, a cui praticamente l'Italia fa riferimento perché ha firmato e ha ratificato sia la Convenzione di Vienna, la Convenzione di Oviedo, la Convenzione di Roma e soprattutto ha ratificato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Cioè sono tutti trattati internazionali che l'Italia ha firmato ed è obbligata a rispettarne per legge, capito? Questi signori, quelli della macchina, non hanno fatto altro che rispettare le normative sia internazionali che nazionali e basta, non hanno fatto niente di illecito, capito? Però quello che ho letto, i commenti al video erano ovviamente contro questa persona o questo gruppo di persone che alla fine si tutelava. Cioè arroganti qua, là, cioè è strano a YouTube, no? Quando ci sono video contro, diciamo, a favore del cittadino, contro lo Stato, tutti a favore del cittadino, questo che si è tutelato in un certo senso, tutti contro questo qua che era arrogante, che si credeva di essere, e poi vai a vedere i nomi dei commentatori, sono gli stessi, cioè prima dicevano a fuoco il governo, il Parlamento e tutto quanto, adesso se l'avevano manganellato, dice, la polizia li doveva manganellare, cioè le stesse persone che dalla parte criticano il modo di fare attuale del governo e volevano manganellare questo che alla fine si è autotutelato, questo del video, hai capito? Come si chiama? Viene chiamata la sindrome di Stoccolma, no? Questa cosa di ed è successa a chi viene rapito, quella di provare un certo tipo di sentimento per il proprio carceriere. Cioè, voglio dire, chiaramente queste cose vengono occultate, nascoste, però cioè, è andato di fatto, sono cose che esistono, capito? E quindi mi dà un po' fastidio che chiaramente la gente parli così a vanvera senza sapere nulla, capito? Quindi cioè, ecco secondo me la gente cosa dovrebbe fare? Dovrebbe veramente informarsi, fare un minimo di studio, soprattutto proprio per far sì che i propri diritti vengano rispettati, cioè cazzo non esiste, capito? Questi cazzo hanno il gioco facile perché hanno a che fare con una madria di assoluti ignoranti, cioè voglio dire, qua non si tratta di essere scorbutici, altezzosi, arroganti, qua si tratta solo e esclusivamente di esercitare i propri diritti, cioè punto. Cioè, una volta che una persona ha a che fare con praticamente un rappresentante delle istituzioni, cioè una volta che uno si autotutela, cioè in base praticamente alle norme, boh, qual è il problema? Se poi praticamente dall'altra parte ci sono degli abusi, chi sta dalla parte opposta ne subirà le conseguenze, cioè voglio dire, però veramente cazzo è assurdo, è tutto assurdo, capito? Cioè è allucinante. E finché, ma visto dai video tipo la fila che c'era a McDonald's alle porte di Roma, cazzo, cioè basta solo quello, capito? Per farti capire a che livello siamo. Comunque io non sono preparato quanto te per quanto riguardava appunto quei trattati, quelle cose, io anche se le ho lette la mia memoria non è più quella di una volta. Il problema è che un qualsiasi cittadino fermato a un controllo dice che ne siamo, non ottemperi 400 euro, che adesso lo becca una volta dopo, non ottemperi altri 400 euro, cioè ti fiaccano economicamente e poi si è rovinato lì, cioè non è da mangiare, capito? E cos'è una minaccia? Cioè non sottoscrivi, non firmi, non vuoi rifiuti l'autocertificazione, allora che poi bisogna vedere appunto se. Ah, io ho letto di un documento, ho letto un PDF da compilare, se c'era un gruppo di persone voleva denunciare tutta la baracca di burattini che c'è lì, no? Purché sia una class action grossa, ma grossa. Poi non ho più sentito parlare, o hanno zittito tutto, boh. Evidentemente non gli è convenuto, ma non lo vedi che l'Italia non ha più sovranità e tantomeno il popolo, non abbiamo nessun diritto, ci hanno fatto a beffa. Ehi, è andata lì, aspetta che cerco un attimino. Porca miseria, vado a trovare, qua è una bolgia, è tutto rutti, coso, zone nude in questo smartphone. È vero, profe, quando è che ti basi di prefetto? Eia, no vabbè Marco, per la storia dei verbali si possono tranquillamente ricercare anche da prefetto, non è quello il problema, sono solamente dei dati amministrativi, non c'è niente di penale, guarda, c'ho il PDF aperto qua davanti dalla Polizia di Stato, cioè noi così, cioè se uno poi vuole continuare a fare ognori, cioè come la storia di, cioè c'è scritto qua, allora vediamo un po', allora sulla storia dei documenti, no? Cioè qua la procedura dice che i documenti vanno esibiti, non vanno dati, vanno esibiti. Cioè la sanzione scatta dal momento in cui tu ti rifiuti di dare le tue generalità, ok? Ma anche in assenza di documenti, tu a voce puoi fornire le tue generalità. Non c'è nessuna legge che dice che tu devi circolare con dei documenti, non c'è nessuna legge. Devi fornire le tue generalità, se no infrangi praticamente, incorre nell'articolo 651, capito? Che è molto esplicito, cioè chiunque richiesta pubblico ufficiale esercizio pubblico rifiuta di dare indicazioni sulla propria entità personale, sul proprio stato o altre qualità personali è punito con l'arresto fino a un mese con la ammenda di 206 euro. Ma poi ti saltano sopra, ma fa accertamenti, se non gli dai i documenti. Capito, l'hai già. Aspetta. Dai i documenti, loro ti possono portare super accertamenti. Hai capito cos'è il discorso? E incorri proprio in quella sanzione. No, ti spiego, cioè i documenti lo dicono loro stessi, io sto leggendo testualmente il PDF il PDF che ho scaricato dal sindacato della polizia. Praticamente il documento va esibito. Allora, quello che succede oggi è una forma di abitudine che dura da tempo, ok? Però qua la legge parla chiaro, il documento va esibito, ok? Ed è un discorso. Succede questo, allora, molti non lo sanno, ma dal momento in cui tu ceri, dai un documento in mano ad un estraneo, gli stai cedendo potere, autorità che si può ritorcere nei tuoi confronti. Perché loro non sono obbligati e tenuti a mostrarti e a darti il loro distintivo? Perché dal momento in cui loro ti danno il loro tesserino, perdono l'autorità su se stessi e la danno alla parte inversa, capisci? Infatti loro te lo fanno vedere, mica te lo danno in mano il tesserino, a parte che c'è il numero di matricola e non te lo devono far vedere. Idee incompattate per chiunque venga fermato. I documenti vanno esibiti. Il discorso che da svariato tempo a questa parte li si dia in mano, quello è un altro discorso, quello è abitudine e consuetudine, ok? Però la legge parla chiaro, i documenti vanno esibiti, ok? Come stavo dicendo a Marcolino, la gente si fa prendere dal panico, viene, cazzo, si fa tutti questi viaggi strani, si intimorisce, è chiaro, e cade in determinate trappole. Però se uno inizia ad imparare veramente quelle due o tre regole fondamentali e si comporta veramente in maniera corretta, non succede assolutamente nulla, capito? Vado, aspetta, Natalì. Sì, già, concordo. I documenti vanno esibiti, glieli puoi far vedere anche senza dargli di mano, se non hai documenti ti puoi dare le generalità, Natali segui il discorso, puoi dare le generalità e tutto finisce lì, no? Solo in condizioni particolari, che ne so, che sospettano che qualcosa, che sei, oppure che sia un personaggio noto o pregiudicato, possono portarti in centrale per accertamenti. Quello è pacifico, però ho notato che in questo periodo è praticamente una poliziotta ha detto uno, e allora qualsiasi lì potrebbe dire di essere Paperino, e la, insomma stanno portando, porco Giuda, perché non mi vengono le parole, Dio? Cioè sta diventando una prassi, se non hai documenti e ti... E delle generalità verbalmente sta diventando una prassi, perché lo sanno loro il perché, e ti portano direttamente, da quando è scoppiata questa cosa sta diventando prassi, cosa che non doveva essere, perché basta comunicare verbalmente le generalità. Poi loro, con tutta la tecnologia che c'hanno adesso, stanno queste cazzo di tetra, di terminali, basta verificare i dati che stai dando, e se coincidono, vabbè che tu puoi dare quelli di un altro, ma... E allora lì, già non, oggi non mi vengono le parole, già hai capito cosa voglio dire, no? Sta diventando prassi quella di portarti in questura necessariamente per accertare l'identità, e diventerà in futuro una cosa automatica. Sì, vabbè, è così. Come si dice, davanti alla legge l'ignoranza non è ammessa. Per cui è giusto per tutelarsi conoscere come funzionano le regole del gioco, capito? Basta veramente poco, cioè, perché poi da situazioni veramente equivoche nascono veramente fraintendimenti, malintesi, e poi praticamente può succedere di tutto, capisci? Quindi, cioè, una volta che uno conosce veramente i fondamentali, va tranquillo e sereno, non ci sono problemi. Avanti, Natalia. Ma quando tu, tanto per dire, ti fermano a un posto di blocco, ti dicono patente e libretto, e loro glieli devi dare, perché loro via radio chiedono informazioni. Hai capito? Castigano, si va in nuda in corso, tutte queste belle cose. Non è che glielo puoi esibire, solo se loro ti fermano a piedi magari e cose. Guarda, allora, per fare praticamente determinate cose ci vuole praticamente ci devono essere determinati requisiti. Uno deve essere praticamente un pregiudicato, e due, ci deve essere praticamente un mandato del magistrato. Ok? Allora, guarda, adesso te lo dico, lo sto leggendo dal PDF. Allora, prima di scendere nel dettaglio dobbiamo tenere presente che l'automobilista, una volta segnalato l'obbligo di fermarsi con la parete, è tenuto ad accostare e a restare in auto. L'articolo 192 del codice della strada prescrive quelli che sono i comportamenti dovuti da parte dell'automobilista. Innanzitutto lo stop all'invito degli agenti, successivamente all'esibizione dei documenti che obbligatoriamente è tenuto a portare con sé alla guida, e cioè patente di guida, carta di circolazione e certificato di assicurazione. Loro ti chiedono quello e glielo devi dare, perché loro entrano in macchina con i tuoi documenti e chiedono alla centrale chi sei, chi non sei, che ti hanno fermato a tal ora, capito? Tutte queste belle cose non è che glielo puoi esibire tu, perché quello si deve ricordare. Se tu non gliela dai la patente, lui come fa? Hai capito? Oh, naturalmente io prima, Natalie, cioè, quando parlavo di dare i dati verbali, parlavo di carte d'identità, cioè controlli a piedi, e non patente con la macchina, parlavo di controlli a piedi. Ah, quello sì, gli fai vedere la carta d'identità, ecco i miei documenti, mi chiamo Tot. Quello sì, ma se ti fermano in macchina gli devi dare la carta di circolazione, loro devono vedere a chi appartiene la macchina, devono comunicare i tuoi dati alla centrale, devono compilare un foglio che hanno loro che ti hanno fermato a tal ora in tal posto, perché devono giustificare che hanno fermato a te, capito? fitto. Sì, sì, ma tu la carta d'identità, se sei a piedi, sei obbligato a portarla, vediamo. No, non sono obbligato, però se loro ci credono alla mia generalità o no, sono fatti loro. Se loro non ci credono, si salgono su per accertamenti, capito? Mettono nome e cognome nel terminale, ci buca la fotografia, vi dici sei tu. No, vabbè, quello già lo sai comunque, ti puoi, se sei a piedi ti puoi comunque identificare verbalmente. Solo che basterebbe l'identificazione verbale, cioè con tutta la tecnologia che hanno, no? Possono fare un riscontro con questi terminali che dicono tanto di avere. Invece sta diventando prassi che ti portano direttamente super accertamenti, magari ti fanno pure, non lo so cosa, che accertamenti fanno, che non potrebbero fare in strada. Cioè, se non c'è documenti non ce li hai né in strada né in centrale, ti puoi dire tutto verbale, ce li hanno i terminali in macchina, futtidini, li compaiono tutti i dati della persona, lo fanno per altri motivi adesso, per una dimostrazione di potenza, capito? E noi non siamo cittadini, te l'ha giudito l'altra volta, siamo sudditi. Ehi, cosa ho detto io all'inizio della conversazione, Marco? Io ho detto che noi abbiamo perso tutta la sovranità, sono loro che devono obbedire a noi come regola, invece noi abbiamo perso tutti i diritti, non abbiamo più sovranità monetaria, perché non possiamo stampare la moneta, che la compriamo dall'Europa, la moneta, hai capito? Non avevamo più un tubo, però meglio Ghissu, che come in Cina, che se tu uscivi ti sparavano addosso invece di farti il verbale, che è diverso. Vabbè, ma io non lo intendo come Stato, si fotta lo Stato italiano, io parlo come individui. Abbiamo una sospensione delle libertà personali, vera e propria, con la scusa del virus. Sì, io certo non sono come Bisanti che dice a priori che il virus non esiste, perché sono sempre esistiti in natura. Diciamo che è stata una scusa, un banco di prova per cose peggiori che vedremo in futuro. Magari non le vedremo noi, magari le vedranno i nostri figli o i nostri nipoti. Cosa che io non avrò perché non ne voglio, vai già. Allora, cosa volevo dire? Vabbè, comunque, che piaccia o no, che si rifiuti o meno, allora, questo è un grande esperimento sociale, ok? Questo è un grande esperimento sociale che usa come pretesto un virus, ok, che non è così letale come viene dipinto, d'accordo? Questo è quello che penso io, ma è il pensiero di molti. Cosa succede? Che si sta creando un precedente, ok, e generalmente queste persone non tornano indietro, anzi vanno avanti, è quello che mi preoccupa, capito? Cioè, se la gente rimane a questo livello di sonnolenza non usciamo più, capito? È quello che io non mi preoccupa tanto il virus, mi preoccupa il livello di sonnolenza, capito? È quello che mi preoccupa, dai. Sì, sì, vedi Natali, Gianni te lo spiega a parole buone, capito? Puro e semplice, si sa spiegare meglio lui. Lo so, loro con la studia della salute hanno creato un precedente, però loro sono consigliati dai medici, se i medici ti dicono non devi farli sì, non ti vasini sì, perché temono per la salute. Guarda che se salgono torna ai contagi, richiudono tutto peggio di prima, e ce ne parleremo in inverno. A aprire. È logico che ti dicono essi, ma con tutte le cautele hanno anche ragione. Buoni i medici, mi ricordati cosa diceva Burioni mesi fa, no, il virus non c'è in Italia, ti vegliani Diego, ti vegliani. Aspetta, voglio dire una cosa io e poi poi mi fermo, dai. Adesso come adesso praticamente in molti sono in preda alla paura, però se uno ha bocce ferme, riflette, ok, cerca di aprire i propri orizzonti, ci pensa e dice, ah, ok, quindi nella zona di Portatore sul Messanto non muore più nessun tumore, ma quindi dalle parti di Escalaplano non muore più nessuno di tumore, dalle parti della Saras non muore più nessuno di cancro, idem per la zona di Macchiareddu, non parliamo di Quirra, di altre situazioni, cioè voglio dire è tutto molto paradossale, capito? Cioè, c'è tanta di quella mondezza nell'aria che respiriamo e oggi puntualmente praticamente siamo diventati così così timorosi, capito? Mettendo da parte quello che tra virgolette era la normalità qualche mese prima, capito? Cioè, purtroppo la vita è fatta così, molta gente continua a lasciarci per i motivi più disparati, perché magari aveva altri malanni, chi per incidente stradale, chi per incidente sul lavoro, chi per una trombosi, cioè tutti questi non esistono più, capito? È quello che mi fa girare i coglioni, cioè senza contare questi 44 poveracci che si sono suicidati, cioè voglio dire è tutto il meccanismo che mi puzza, capito? Cioè mi rifiuto di accettarlo, capito? Perché non è possibile, cioè voglio dire, poi la cosa più pericolosa è che dove finisce la libertà di uno inizia la mia libertà, ok? Nessuno si può prendere tantomeno arrogare il diritto di impormi di come mi devo muovere, soprattutto di come tutelare la mia salute, capisci? Cioè una volta che il branco per paura adotterà determinate decisioni pericolose, queste decisioni pericolose si ritorceranno anche a coloro che sono contrari a queste cose, capito Natali? È questo che mi fa paura, capito? Certo che ti hanno privato della libertà personale, insomma, bisogna vedere quanto è legale questa storia. È un macello. Hai ragione anche tu, Gianni, e purtroppo è così. L'unica cosa che so è che, per esempio, un poliziotto non ti può arrestare, sembra un paradosso, ma lui ti può mettere solo in stato di fermo, ti può mettere. Chi ti arresta è il magistrato, non lui. Certo, infatti, quando in molti tra virgolette ti invitano anche in maniera molto, molto ferma, no? Molto autorevole, ti invitano a compilare la certificazione, è sempre una forma di invito, non c'è nessun obbligo, ok? È un invito fatto in una certa maniera, ok? Ma è sempre un invito, non c'è un obbligo, ok? Infatti alcune di queste persone che sono capitate in situazioni del genere hanno detto, ma questo che lei mi sta dicendo è un ordine in forza di autorità o un ordine in forza di legge? Ok? Perché se un ordine in forza di autorità, lei mi deve mettere il suo nome, cognome, numero di tesserino e dopo 48 ore ci deve essere anche il mandato del magistrato. Ok? Se è in forza di autorità. Se è in forza di legge è un'altra cosa. Infatti molti di questi, una volta sentite determinate risposte, praticamente si sono bloccati e hanno fatto marcia indietro. Capito? Quindi solo la gente che praticamente è preparata a questo riesce tra virgolette a muoversi in determinati ambienti, capito? Ma sempre con rispetto, con giudizio, con buon senso e rispettando tutte e tutti, capisci? Cioè queste sono le norme basilari e non bisogna conoscerle. È inutile che uno cazzo conosce tutti gli scudetti che ha vinto la Juventus e poi cazzo non riesce a ricordarsi neanche un articolo della Costituzione, capito? È allucinante. Quello sì. Cosa vuoi che ti dica? A me per esempio l'altra volta mi hanno fermato i carabinieri che stavo portando il cagnolino, no? Lo stavo portando a fare i suoi bisogni. Cazzo. detto mi ferma che sui carabinieri, mi ha detto io dove sto andando? Sto andando a portare il cane, dove abita lei? Qua vicino, in questa via abito. Beh, non mi hanno chiesto manco i documenti, si ricordi che non può allontanarsi più di 200 metri, vabbè, da qua a casa ci saranno 100 metri, ha detto, io gliel'ho detto che abito in questa via, bisogna anche saper parlare, a chi se tu vai a rubare potenti, allora ti vado in compilà, tu voglio, chi d'altro, invece se uno è tranquillo, manco i documenti mi hanno chiesto a me. Dai, faccio l'ultima battuta, poi faccio riprendere a Marco. Cosa volevo dire? Sì, vabbè, come ho detto a Marco all'inizio, la televisione dice una cosa, però io in questo periodo ho imparato a scaricarmi le informazioni della Gazzetta Ufficiale, capito? E quindi, cosa che dovrebbero fare in molti. Perché quella è la fonte ufficiale, non la televisione. La televisione sta facendo un lavoro veramente orribile, secondo me. E io in televisione ci ho lavorato quasi 20 anni. Ed è uno strumento molto pericoloso la televisione. Per cui io personalmente mi sono sempre tenuto aggiornato dalle fonti ufficiali, capito? Dove quando si parla di prossimità non viene specificato nessuna unità di misura, tantomeno i metri. Chiaramente poi i metri sono saltati fuori in base alle ordinanze del sindaco, ok? Ma ricordiamoci bene che nella gerarchia delle fonti, nella gerarchia delle leggi, praticamente un'ordinanza del sindaco è sempre subordinata alla forma di legge superiore, ok? Quindi una volta che tu sei in prossimità del tuo domicilio non stai commettendo assolutamente nessun reato. Sì, lo so, però cosa vuoi? Ognuno sento gabbi dentro barretti, invece di comandare un usuro, comandano in senso, ed è chi sul macello. Poi le televisioni sono voce pagata, vanno dove gli conviene, hai capito? Avanti Marco. Sì, poi a me faceva ridere, ma in realtà non c'è niente da ridere, anche che ti insegnavano a lavarti le mani, no, con sto coronavirus, come le elementari, lavarsi bene anche tra le dita, no? Proprio come bambini, trattati da bambini. No, almeno. Sì. Boh, vabbè. È una prova, la gente, forse molti non l'hanno ancora capito, è solamente una prova, la gente si deve uscire dallo sonno, e niente, guarda, io ti ripeto, non sto dicendo che il virus non esiste, ma esistono da migliaia di anni il virus, non è che sia un problema. Poi, ti ripeto, per quanto mi riguarda è quello che penso, ve l'ho già detto poc'anzi, non ho voglia di ripetermi e di essere logorroico. Io mi auguro che veramente la gente si svegli invece di stare a cantare dalla finestra, perché non c'è un cazzo da cantare. Cioè, sento parlare di cose assurde, cazzo, cioè questi sono più importanti degli altri, sì, ci sono gli imprenditori, poi c'è Cinzio, Taglio, Sempronio, cazzo, cioè non ci siamo resi conto che tutti hanno tutti il diritto di vivere una vita dignitosa. A me non me la fotti nulla se sei una partita IVA, se sei un giocatore di calcio, se sei niente che d'altro, tutti hanno il diritto sacrosanto e fondamentale di vivere una vita dignitosa, e sentire parlare di questo merita più di quello, merita più di quell'altro, sono tutte coglionate, capisci? Finché la gente non capirà questo, continueremo sempre a farci la guerra tra poveri. Cioè, cazzo, vedi gente che non fa una casa, non fa cazzo neanche un euro per mangiarsi un balino, ci sono disabili, c'è gente, cazzo, veramente messa male, cazzo, e ancora continuiamo a parlare sempre le solite cose, è quello che mi fa incazzare, capisci? Cioè, io certe cose, le ingiustizie a me mi fanno, cazzo, veramente salire il sangue alla testa, cazzo, non le sopporto. Cioè, cioè cazzo si sta parlando di tutto e di più, cazzo praticamente dove ci sono veramente le categorie più deboli e svantaggiate che sono state messe cazzo alla gogna, capito? Poi chiudo una parentesi, veramente finisco perché sennò guai. C'era un post interessante su internet dove parlava praticamente dei clochard, praticamente nessuno di questi si è ammalato, e questi poveracci vivono per strada, cazzo dromini in terra, mangiano quello che cazzo, quello che possono mangiare e chissà da dove lo prendono pure, e nessuno di questi si è ammalato, va giusto tutto. Ok, vediamoci ormai che boba. Sì, ma poi dicevano, per esempio, Natalie, tu, che so, tu Gianni, quante persone conosci direttamente che si sono ammalate di questo coronavirus, ma documentabile con, vabbè, tamponi, certificati, e poi certificati e inchiostro su carta, anche quello è falsificabile, c'è su un pezzo di carta tipo buonighi su voi e dire questo è positivo e questo no. Quante persone conosci direttamente contagiate o famiglie dove c'era almeno una persona contagiata, sempre documentabile, sempre che la documentazione va, io nessuno. Se vai a chiedere a 1.000, a 10.000 persone, vedrai che più ne chiedi e più ti diranno la stessa cosa. Non conosco nessuno, anima viva, che abbia certificabile, che abbia contratto il virus. Ma anche io non ne conosco nessuno. Poi non è detto che tutti quelli che sono morti siano morti per coronavirus. Può darsi che avevano malattie pregresse, non ce l'hanno fatta con questa polmonite che si è aggiunta alle altre malattie, capito? Sì. Ma se quelli saranno, guarda, tutte le morti naturali saranno andate a bollare come coronavirus. Sempre per mettere paura, per portare avanti tutto questo teatrino, Natalia. Chissà che abusi che ci sono dietro, che noi non sappiamo. Come sempre, quello che diciamo, quello che vediamo è la punta dell'iceberg. E tutta la merda che c'è sotto che non vediamo. Infatti, il primo abuso è che ci hanno tolto la libertà personale, sembravamo tanti carcerati agli arresti domiciliari. Ehi, ma poi certe cose folli, quello che correva sulla spiaggia deserta, che non poteva né contagiare né essere contagiato da nessuno, il sub con gli elicotteri sono andati a stanarlo dal mare per contestargli che era andato. Questi, ma dove cazzo li hanno trovati i soldi per gasolio, per benzina? Qualcuno li chiamava ogni volta, non abbiamo macchine, piangendo i sindacati di polizia, non abbiamo la benzina per le due volanti a Sassari. Ma di cosa stiamo parlando? E a me non li ho chiamati, non ci sono venuti per un furto, di più né voi, per un furto. No, io ho roba più grave, per aggressione, un'aggressione poi banale, però intanto l'ho chiamato, 40 minuti resistenti, tu visto ne hai, io nemmeno, tanti anni fa sto parlando, vai già. Ehi, mi sembra che è entrato Luca, avanti Luca. Ehi, allora, sono rientrato dopo la 25 in videochiamata. Sono poi di zio, mi chiami mai, bomba, me la sono fatto un po', e sono qua. Allora, me lo smettono ogni tanto, cavolo, in partello sta. Mettiti il martellino vicino. So, secondo me è un problema di tensione, magari va e viene, boh. Poi bisogna vedere se è lo smitter o se sono gli impulsi elettrici che arrivano allo smitter, lui. E infatti, secondo me è un problema di impulsi, magari più bassi, però ce la fa. Poi gli arrivano giusti, capite? Gianni, una cosa. Vai, dimmi. Il veleno sputato sulle moto, no? Un giorno, moto non parte, bla bla bla, porti la meccanico e cominci, è la batteria, vabbè, cambia la batteria, non c'è problema, cambi batteria e non funziona lo stesso, se si scarica sta batteria, allora il regolatore, cambia il regolatore e non era quello, cioè, siamo risaliti dalla batteria fino a tutta la catena, alla fine l'abbiamo scoperto io e Pippo, Super Pippo, non il meccanico, che l'alternatore dava sì tensione, ma non dava amperaggio. Amperaggio zero, dava tensione ma zero amperaggio. Abbiamo smontato mezza moto in strada e ci siamo accorti noi di quello. E addirittura mi pare che quello, è meccanico, una gabba dubbia, intanto mi ha fatto cambiare la batteria, il regolatore, che è quello ponte di Dio, che costava anche un bel, la malasoci, non so che cosa, e poi il coso l'abbiamo scoperto noi. Ah, in ora buona. Ho capito, tu stai parlando del rettificatore di tensione, quello praticamente in alluminio, cioè qualcosa in alluminio affogato dentro quella resina, giusto? Sì, sì, sì, che costava, non so se c'è 100, 200 mila lire, e se parla in lire all'epoca, no. Poi dentro ci sono quattro diodi che se li compri da Fusaro ti costano 2 centesimi. Però loro, capito, li annegano nella resina in modo da da comprare un regolatore nuovo. Boh, vabbè. Insomma, tutta la catena mi ha risalita dell'alternatore, che sia vuoto mi pare dava tensione, o non mi ricordo bene. Comunque quando andavi a mettere sotto quadro, no, come accendevi, tutto c'era questo calo di tensione. No, scusa, non per la tensione, proprio se ce ne va zero. Abbiamo scoperto noi in strada. Vabbè, e quindi da cambiare anche quello. Cioè, non si va a tentativi, vabbè che... Cioè, meccanico ne ha tanti di moto, posso capire, però alla fine... Cioè, cambi quello, non è quello, ti può cambiare quello, non è quello, alla fine cambi tutto e hai speso un bel. roba di zocco, vabbè, lì è... già lo sai, non ti devo insegnare nulla, Marco, no... Qua gli esempi si potrebbero sprecare, dai, quindi lasciamo perdere, dai. Adesso mi costringe a raccontarti un aneddoto in maniera proprio veloce. Mi ero comprato il Kawasaki 750, color amaranto come la tua, con i filetti oro, da Italo Nigra, quello dei cementi viale Polo Torres. Dopo un paio di settimane che lo stavo usando mi si era troncato praticamente il rinvio, la testolina snodata e il rinvio del cambio, e mi è rimasta la prima. Sono andato a un meccanico qua vicino a casa mia e la risposta non dell'anziano, che buon'anima, era una persona d'oro, lo stimavo, ma comunque un giovane di officina ha esordito con questa frase dicendo: noi catarri così non ne aggiustiamo. Ho preso, in prima sono salito da signor Mario Mariani in Piazza dei Segni, mi ha levato la moto dal ponte, ho messo la moto sul ponte, ha preso la saldatrice con un pezzettino di elettro, mi ha messo un punto di saldatura e mi ha detto: guarda, regalami un pacchetto di marmore, siamo a posto. Allora ho capito da quando ho capito solo da che noi cattari così non ne aggiustiamo, perché c'è stata un'interferenza da parte di mamma. Quindi devi ripetere la parte iniziale, di prima dei catarri, mi devi dire. Mi si era troncato lo snodo del rinvio del cambio, no? Sai che ci sono quelli, lo snodo sferici. Mi si era rotto uno di quelli e praticamente sono andato in un meccanico qua vicino a casa e ho detto se si poteva fare qualcosa, capito? Erano le prime armi, la moto ce l'avevo da qualche settimana. E un giovane è sbucato a questa officina e ha esordito dicendo: noi di catarri così non ne aggiustiamo. Interessante. Ah, per uno snodino, quello sì. Caspita. Vicino a casa tua. Magari uno conosciuto anche. Sì, vabbè. Non parlo io. Era giovane all'epoca, dai, quindi rugavo, rifumava. E niente, quindi infatti quando dovevo cercare i pezzi di moto o parlare d'altro parlavo col padre, dai, non ti dico altro. Sì, sì, il padre e due figli, sì, ho capito già, sì. E quindi signor Mariani te l'ha risolto con un pacchetto di sigarette, com'è, così ho capito. Ha preso l'elettrodo, ha dato due gol, poi io, ciao, arrivederci, porta il pacchetto di mano, siamo a posto. Ma poi sai cos'è, io sempre, vabbè, ci sono certi meccanici, ma non solo meccanici, anche aziende che sai, riparatori computer, anche se gli fai un'osservazione, no? Ti dicono, se non gli va bene vada da un altro. Cioè, glielo leggi in faccia, non te lo dicono, finché non gli fai un'osservazione, tipo, fai una riparazione e la riparazione non è andata bene, vai a contestare, dicono, se non gli va bene vada da un altro. Glielo leggi in faccia, sono tutti così, poi si lamentano, è la crisi, non c'è lavoro. Vabbè, poi anche sentito di mio, ma parla in tutti i campi, in tutti i campi, studi commerciali, tutto. Vabbè, comunque già, tornando al discorso di tutto questo casino, all'usa serie si usa cosa di preme che riaprano i bar e che di nuovo le partite in TV, cosa gliene frega a sé, che riaprano i bar. Cosa gli preme veramente, mi dico che barauli. Dai, faccio una battuta e poi rilancio un altarino. Sì, sì, vabbè, infatti presumo che presumo che tra un po' ci sarà un sacco di gente ricoverata per coma etilico. Ricoverati nei bar stesso, capito? Con la flebo di birra o vino magari. Noi, perché poi questo io dico l'usanza Reggio, quello lo puoi applicare in tutta la regione, anche in tutte le regioni d'Italia, le città d'Italia, capito? Così è, vabbè. Luca, c'è ancora? Ha spazzato al 10, vedi chi c'è, c'è gente anche lì, ho fatto un paio di passaggi lì, sono un po' stanco, là. Adesso mi metto la schiena sul letto, tranquillo, perché sono tutta la sera facendo, la stamattina, poi devo, questa macchina l'ho aperto per vedere se riuscivo a sistemare lo smitter, ma non so da dove sia il problema. Poi mi sono sistemato un telefono, l'ho già consegnato, qualche spiccioletto me lo sono fatto, là, anche stasera. Intanto hai visto lui, spiccioletti, poi, buono, ottimo. Chi ci è rimasto? Natalino? Ehi, già ci sono. Sono tardati, uscito, beh, la gente mica ti aiutano, Si vedono già purtroppo. Bene, c'è male. Oggi è stata una giornata strana per me, perché... sono andato a letto tardi, ho alzato un po' tardi, poi però nel pomeriggio mi è venuta questa sonnolenza molesta, tipo mosca zezè. Io praticamente fino alle 6:15 ero mezzo sveglio, mezzo addormentato. Mi riaddormentavo, mi svegliavo, proprio una sonnolenza molesta. Si è buttata una giornata, vabbè che commissioni non le devo fare, spesa non le devo fare. In pigiama ero, in pigiama sono rimasto, dov'è? Bene, vabbè, siamo tutti un po' così, dai. Ebbene, Natalì, questa radiolina schicchia. Sì, già schicchia, già. Vabbè, siamo in linea d'aria, siamo 200 metri. Lo strumentino è analogico o digitale, lo smitter di quella radio? Purtroppo è digitale. Il mio segnale com'è? Prova. 1, 2, 3, canale 10, 2, no, non è canale 10, è canale 28, 27, 285, cambio. Fondo schiena. Bene, dai, sono contento. Marco me l'aveva fatta vedere la foto, dovrebbe avere la gemella o il modello simile, è una bella radiolina, dai. Bene, molto meglio, guarda, perché credimi, non ti voglio offendere, però veramente quel barattolo era inascoltabile, dai. E cosa vuoi, però questa no, vabbè. Chiusi. Vai Marco. Stavo cercando tutto nell'archivio PDF quel documento di tutti questi che volevano fare una denuncia contro il governo, presidente Mattarella, tutti, niente. È magicamente sparito dall'archivio del PDF, io non l'ho cancellato. E quindi dovrei mettere anche l'applicazione Immuni, così chissà cos'altro fa. Non lo trovo, non c'è. E si è smaterializzato e non l'ho cancellato io. Vabbè, una piccola parentesi e poi... No, Allora, stavo leggendo il parere di alcuni giuristi costituzionalisti, insomma gente del settore, che praticamente questa sorta di class action in questo momento e durante le cariche determinati personaggi non servono assolutamente niente. Funzionerebbero dal momento in cui questi personaggi non saranno, dal momento in cui non saranno più in carica, allora sì, però in questo momento non sono, tra virgolette, come si dice, mi sfugge il termine, comunque in questo momento la class action non servirebbe a nulla. Sì, perché non avrebbe effetto, a parte che sono tutti abusivi, compreso il Presidente della Repubblica, perché non li ha votati nessuno. Non so, no, lì il discorso è troppo ampio, non saprei che cosa dire. Allora, vi do una chicca, non so, magari chi ne ha voglia, chi ha voglia di smanettare può trovare spunto per scoprire cose interessanti. Forse Marco io l'avevo già letto. Allora, in molti non sanno che l'Italia, oltre ad essere quella che in molti conoscono, è anche una corporation, Italy Republic of, registrata la Security Exchange Commission di Washington dal 1934, dal ministro Jung, allora ministro delle finanze durante il ventennio fascista. Non fatevi ingannare dei termini. Comunque, sappiate che oltre ad essere praticamente un ente politico, l'Italia è una corporation. Ehi, è una cosa commerciale, potremmo dire. Quindi non siamo nemmeno sudditi, ma dei prodotti noi cittadini. Siamo dei prodotti. Allora, 194 stati su 204 sono registrati a questa, è come se fosse la Consob però a livello mondiale, ok? Se voi entrate nel sito trovate tutto, ok? Trovate 194 stati registrati come corporation, quindi non ho paura di essere smentito, quindi fate fobis, va, sparite tutti. No, sono qua, stavo smanettando. Ma ricordato le parole di quello con gli occhiali che parla BioBlu a riguardo internet, di questo I agree, che praticamente siamo diventati un prodotto noi, cioè dove veniamo venduti e svenduti sotto forma di dati a tutte le aziende possibili e immaginabili, no? Quando accetti, sempre che clicchi qualsiasi programma, stai accettando qualsiasi cosa, puoi usarlo, lo smartphone e anche i programmi, però poi i tuoi dati se li... sì, c'è un prodotto a tutti gli effetti. Non voglio... cioè, se sto diventando rompicoglioni, ditemelo, cioè, però mi va di accennare determinate cose. Allora, come si dice? Cosa volevo dire? Allora... mi sfugge, voglio cercare di rendere il concetto molto più semplice. Ritornando al discorso di dei cittadini, a livello giuridico il cittadino è una figura giuridica che ha i propri diritti limitati, ok? Il parlamentare, per esempio, inizia a godere già di più diritti e oltre ai diritti gode molto di più rispetto al cittadino di servizi e privilegi, proprio perché appartiene a una classe sociale superiore, infatti viene chiamato onorevole dalla parola onore, che poi di onorevole non c'hanno un cazzo, fondamentalmente. E quando si parla di popolo, anche lì nelle parole esistono, ci sono tante di quei tranelli che voi non ne avete idea, cioè anche il termine popolo ha i suoi retroscena. Sarebbe più giusto usare il termine popolazione, che definisce un insieme di individui, non di popolo, ok? Se voi iniziate a studiare l'etimologia delle parole e dei termini, scoprirete delle cose allucinanti. Infatti andrebbe approfondito, anche quello, è che poi con la memoria che mi canta già. Comunque Ugo Mattei quando parlava, era quello, parlava degli smartphone che non puoi togliere la batteria, che quando accetti pur di usare lo smartphone o l'Apple, l'iPhone, accetti qualsiasi cosa, che dice sostituisce anche il normale diritto. È una cosa strana. Non mi dilungo a parole, tanto non mi saprei spiegare. Ehi, avanti Natali. Ehi, io dai, vi saluto che me ne vado a letto, dai. Ci sentiamo alle prossime. Mi ha fatto piacere la chiacchieratina. Va bene, dai, saluti a tutti. QRT per me. Ehi, spero che non ti abbiamo annoiato, dai. Comunque, grazie della chiacchierata, della compagnia Natali. Ogni tanto già è bene, dai, parlare di altre cose, trattare altri argomenti. Per quanto mi riguarda, dai, ok. Buona serata e buon proseguo, dai. Ci aggiorniamo domani o al più presto, ok? Vai Marco. Io c'è Natali. Dai, sentiamo, mica ti prendo in giro, con la storia dei tre fili, che non è riuscito a trovare il microfono di un MBB4. Vabbè, dai, fallo a mente fresca, a parte gli scherzi a tre, fallo quando sei più riposato, vedrai che ti verrà naturale. Volevo sapere una cosa, Marco, come si fa a centrare la manopola del clarifier? Come si fa a centrare? Allora, mi ricordo che quella manopola del clarifier ha un tot di scatti in totale, da un'estremità all'altra. Io per eccesso di pignoleria, ma non è necessario farlo, ho contato tutti gli scatti e poi mi sono posizionato sulla metà, no? In modo che corrispondesse alla posizione centrale. Cioè sembra che vada all'infinito, no? Che gira all'infinito, invece no. Però poi ho dovuto riprogrammarlo col cavetto e col programma. Siamo molto avanti. E andava là, allora usi. Perché stamattina era centrato, era. Adesso è spostato di uno scatto. Quello perché vuol dire che tu su un canale l'hai spostato, no? L'hai tolto dalla posizione centrale, magari ti sei centrato in mano laterale. Poi hai cambiato canale e adesso quel canale comunque ti rimane spostato, lo sai, e infatti è una cosa molto criticata su quell'apparecchio lì, troppo criticata, no? Non mi è piaciuta niente. Vabbè, comunque non ti preoccupare, se casomai ti porto il cavetto, il programma e lo programmi da capo. Cappa, là. Vabbè, là, correti per me, sennò non me ne vado più a letto. Ehi, ehi, ciao Natali, ciao. Qua continuano a suonare messaggi, mamma mia. Cioè, mi stanno floodando di WhatsApp, non posso stare con questo telefono in mano tutto il giorno, già ci sto mezza giornata, figurati. Non è gente del baracchino però, eh. Ah, però no, guarda, io da quel punto di vista già sono tranquillo. Sono tranquillo. Luca, ci sei ancora? Io sono come Marco, sono con il telefono in mano. Voglia. Volevo dire una cosa. Adesso mi sfugge. Me ne sono dimenticato, dai, comunque. Cosa volevo dire? Ah, il discorso dell'etimologia dei termini. Non ho idea di tutte le cose che si nascondono dietro, cioè veramente ti si fanno i capelli dritti. Chissà, Popolo per esempio, se lo cerco su internet, cioè, guarda i grandi messaggi che mi mandano, per far sentire, ecco, le flatulenze, ecco i grandi messaggi di WhatsApp. Flatulenze. A parte che li batto 10-1, lasciamo perdere. Oia. No. Cazzo, sto parlando della condizione del tempo. Ma io oggi che... No, oggi è martedì. Cazzo, crocro. Volevo dire un'altra cosa. Vabbè, la storia dell'etimologia l'ho già detta. Non mi viene in mente nulla, dai. Stavo guardando un po' qualcosina, vabbè, tre cani, non so se è affidabile, se è popolo. Vabbè, populus. Vabbè, lì da latino sarà popolo, latino populus. Vabbè, qua c'è la definizione in italiano che non mi interessa. Dice: complesso di individui dello stesso paese che, avendo origine, lingua, tradizioni religiose, culturali, istituti, bla bla bla, omissis. E allora non me ne voto nulla. Vabbè. Poi dice: gli usi e pregiudizi del popolo. No, vabbè, niente di che. Vabbè, comunque. Molte terminologie sono, come si dice, hanno solamente una valenza giuridica, cioè sono termini giuridici, capito, che hanno il loro peso e la loro importanza, capite? Cioè, popolo e popolazione sono due cose completamente diverse, capito? Non è esattamente la stessa cosa, anche se a livello fonetico siamo lì, però a livello giuridico hanno due valenze completamente diverse. E infatti poi qua intelletto pasticcio, poi certe cose mi sembrano, vabbè. E poi io sono già, non connetto bene, non trovo le frasi, le parole. Che giornata strana. Oggi è come, non ho avuto né un giorno né una notte, qua è tutto un limbo. Cioè, se avessi le finestre chiuse non capirei nemmeno che ora è, non avendo orologi. Vale. Vabbè. Oh, io, vabbè, un po' di rincoglionimento. Già c'è anche qua, Continua a smanettare qua su internet per sentire altre campane e leggere altri contributi interessanti. Grazie, a voglia. Grazie. Ce n'è da leggere, cazzo. Ti ribassa pure la gana. Avanti tu. So che mi intendi con il telefono, so che ti intendi roba al telefonino. Ma chi no? No, sto cercando, sto guardando, no, nei gruppi dove ci sono dei cibi da. Ah, ok. Bene meda. Ascolta, quindi così a livello aglio-olio, senza sapere se è possibile saperlo. Più o meno buccia tutta, quante radio ti sono rimaste? Togliendo gli omologattini, quelli insulsi, valide, una, due, cinque, più robetta che non conto nemmeno, tipo il polmar omologato. Ma quel veicolare strano con cui modulavi l'anno scorso d'estate, l'hai contato, sì? Era? No, probabilmente no. No, io se dovessi contare tutto, caspita, mi ci vuole davvero il pallottoliere. Ho pensato a un termine, adesso mi è sfuggito, vabbè, dai. Comunque già hai lo stato necessario, quindi non ti annoi. E comunque la roba seria non c'è più, proprio la roba seria non c'è più. Date, in realtà non erano neanche da acquistare, ora o fare, non fare, antenne, esami, poi ho detto no, lascia aperto. troppi soldi da movimentare, eccetera. Truscia si chiama. Mamma mia. Infatti stavo